ci tanto si ci su, acciaccialo su mani giù, prima non venga con te più, acciaccialo su mani giù, prima non venga. Chiamate in città, così Gesù, a già calò su a